L'iniziativa nasce nell'ambito dell'assemblea sindacale delle lavoratrici e dei lavoratori che c'è stata la settimana scorsa del settore cultura, quindi musei e biblioteche del Comune di Bologna, un'assemblea partecipata come non succedeva credo da 15 anni, in cui ci siamo confrontati perché è mesi che l'amministrazione sta presentando progetti, piani, dicono loro unici per ambizione e visione, aggiungiamo noi per fortuna, che invece quando si va a guardare le carte, quando si va a vedere quello che effettivamente viene scritto, nascondono dei problemi e aprono delle voragini proprio sulla situazione del patrimonio culturale, a partire dall'ormai mitologico piano economico finanziario, del piano strategico, il piano strategico dei musei annunciato in pompa magna qualche settimana fa, che dice, come abbiamo già detto, che bisognerebbe assumere tanti lavoratori della cultura, lo dice il piano stesso, da 39 a 74, poi abbiamo scoperto che la nuova bozza cancella questa frase, cioè l'amministrazione si è accorta che non c'è più bisogno di assumere nessuno. Non solo, ma quando il piano è stato presentato, il sindaco disse che le proiezioni ipotizzavano un aumento di risorse nel quinquennio del più 27,9%, il piano strategico invece, quando si va a leggere le cifre, cala nelle entrate correnti da 5.726.000 euro per tutti i musei del 2025 a 3.874.000 per il 2027, quindi al posto di quel fantomatico più 27,9% c'è un calo del 33% nell'arco di soli 3 anni. Non solo, ma sul discorso del personale, sempre in assemblea è venuto fuori che il personale dei settori culturali è considerato strategico ed è tra le priorità dell'amministrazione comunale, ma purtroppo è doveroso ricordare i noti vincoli di legge sul numero di unità da assumere ogni anno, cioè l'amministrazione vorrebbe ancora nascondersi dietro il solito refrain di "a noi piacerebbe tanto assumere, però non possiamo, signora mia, perché ci sono i tetti, i vincoli, eccetera". In realtà, visto che hanno appena pubblicato il piano del fabbisogno del personale del Comune di Bologna, che è il documento di programmazione più importante, il Comune dice che per quest'anno, rimanendo dentro questi fantomatici tetti, potrebbe spendere oltre 180 milioni di euro di spesa per personale e invece ne spenderà 166 milioni per il 2025, 165 per il 2026, 164 per il 2027. Sempre il Comune dice che stima le cessazioni, quindi la personale che andrà in pensione più quello che si licenzia, le cessazioni volontarie, in circa 230 unità, e sempre l'amministrazione dice che ne assumerà 145. Non solo sta bloccando il turno, ma sta tornando indietro. Quindi, a fronte di quelle che sono delle evidenti bugie portate avanti dall'amministrazione e oltretutto sbugiardate dalla stessa amministrazione nel momento in cui, come avrete sentito, si è improvvisamente dimessa anche la direttrice del settore musei, una scelta che ci ha preso completamente in contropiede, visto che il piano strategico da lei studiato e voluto negli ultimi 2 anni era stato appena presentato. E a fronte di tutto questo scenario apocalittico, le lavoratrici e i lavoratori, ovviamente in stato di agitazione oramai da un anno, hanno deciso di andare verso lo sciopero. Ma, ed è questa la novità, andiamo verso uno sciopero, nel senso che quello che noi facciamo non è semplicemente un'avvertenza per il posto di lavoro, per il salario, eccetera, anche ovviamente lo facciamo per avere le assunzioni che servono, per avere l'adeguata manutenzione, eccetera, eccetera, ma quello che è importante è che è uno sciopero, una mobilitazione contro la morte della cultura da parte di tutte e tutti coloro che questa cultura, malgrado tutti, stanno continuando a Bologna a tenerla in piedi in maniera orgogliosamente civica e pubblica. Quindi vogliamo parlare con la città, vogliamo fare quello che sappiamo fare meglio, cioè raccontare storie, e da qui nasce l'iniziativa di domenica 13 aprile alle ore 11 in Certosa, "Mi rivolto nella tomba". Tra l'altro il titolo che richiama un'iniziativa che già facemmo come COBAS tanti anni fa è una cosa che apparentemente sembra un po' lugubre, ma non lo è, perché praticamente i musei e le biblioteche sceglieranno ognuno di andare a spiegare le ragioni di questa protesta sulla tomba di uno dei grandi o delle grandi personalità che nel corso dei secoli hanno salvaguardato o accresciuto il patrimonio culturale di Bologna, quello che oggi noi ci troviamo nelle biblioteche e nei musei. Questo per ricordare che sono in tanti quelli che oggi veramente si rivoltano nella tomba a vedere la situazione della cultura in città.